maledetto di desiderarti tanto. La smania irrefrenabile di averti accanto a me mi fa sentir fuori dal mondo quando io sono senza te. Ti voglio, un amore immenso, e quando io ti penso mi strugge il desiderio inarrestabile di te e mi convinco che nessuno